Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent. Ecco sì. Lei preferisce giocare di qua o preferisce... Facci lei. Ah, allora io sto di qua. Prego. Perché lì è contro il sole. Facci lei. Capolavoro assoluto. Tutti i tempi, il ragioniere insieme al geometra Renzo Filini impegnati in questa partita di tennis alle 6 di mattina con un abbigliamento improbabile ma descritto in una maniera poetica, non solamente ironica ma anche qualcosa che dà un aspetto romantico, poetico. La maglietta della Gil e le mutande ascellari sono indubbiamente, per chi anche solo ha avuto modo di ascoltare l'audio senza aver visto le immagini, danno un'idea insomma di questo abbigliamento sportivo quanto mai particolare. E per quanto riguarda l'abbigliamento, in questo caso invece molto più curato, una mostra a Pisa nei nostri magazine in partenza quest'oggi, come vi ho detto, un'attinenza, no, tra i magazine e anche il nostro Last Minute, in questo caso dallo sport inclusivo, dai motivi assolutamente importanti con Sport and Show per quello che riguarda l'appuntamento di giovedì 14 settembre al Teatro Comunale Nuovo, si passa invece a qualcosa, se vogliamo, di più frivolo, ma indubbiamente qualcosa che è nel nostro contemporaneo e che nella cultura di massa ha avuto motivi di cambiamento e di relazione fra turismo, sport e vacanza. Sì, sono aspetti che sembrano così lontani, ma che in realtà hanno delle attinenze molto forti. Pensate che queste tre parole dalla seconda metà dell'Ottocento sono andate quasi a braccetto fino ad arrivare ad essere assolutamente presenti e accompagnate nel contemporaneo. L'articolo che troviamo a pagina 18 della Domenica del Sole 24 ore e con questa esposizione a Pisa tra immagini e, perché no, anche abiti e attrezzature sportive, ne danno indubbiamente una testimonianza, una curiosità di come un aspetto una volta destinato unicamente a professionisti o persone più abbienti sia diventato invece ormai sdoganato nel nostro quotidiano, tra sport, vacanza appunto e abbigliamento. Non dico neanche moda, perché è un termine che non è che sia esattamente nelle mie corde, ma veramente l'abbigliamento. Il più squinternato, cioè io, per quanto riguarda la vacanza, dà una parte importante di rilievo all'abbigliamento per il tempo libero e, perché no, anche per qualche attività che poi diventa di frequente attività sportiva. Oltretutto ci sono anche sport particolarmente vicini a quello che è un vestirsi nel quotidiano. Ad esempio viene citato nell'articolo sia il tennis che la pallacanestro. In effetti i pantaloncini, adesso molto ampi ed allargati, sono diventati beh, sono partito da questi perché sono nelle vacanze il mio abbigliamento seconda pelle, praticamente non posso fare a meno dei miei 4XL da basket perché sono, oltre che di una comodità, anche per così dire di una freschezza in periodo estivo molto molto accomodante. per non parlare poi degli tra virgolette elegantoni con delle marche ormai storiche, e in questo caso passiamo al tennis con Fred Perry, con Lacoste, che sono stati prima atleti, poi dopo con linee di abbigliamento di grande successo che sono diventate anche motivo di eleganza. Comunque l'articolo aggiunge anche una parte importante, il passaggio che vi è stato per questa specificità, una volta ritenuta unicamente per persone abbienti o per professionisti tra virgolette del settore, il passaggio alla quotidianità nel vestirsi, anche in maniera, se vogliamo, elegante. In maniera immediata, tante veramente sono le argomentazioni e le suggestioni in questo articolo, seppur apparentemente di argomento frivolo. Ad esempio, esperienza personale, il vestirsi in maniera molto molto immediata dà poi, nel momento in cui per caso nell'armadio unico capo pulito è una camicia bianca o un pantalone con la piega ben tenuto, e quindi costretti a indossare quello, ed è un normalissimo pantalone e camicia bianca, nulla di che, poi ti vedono abbigliato in questo modo, il primo commento è: wow, ma ti sposi, ma come sei elegante. Beh, hai una camicia e un paio di pantaloni, nulla più, però chiaramente hai dato l'idea di essere costantemente in bermuda e canotta, e questo è un vantaggio, se vogliamo, nell'immediato, che poi basta poco per avere un ritorno di attenzione per l'aspetto dell'abbigliamento. Perché parliamoci chiaro, comunque ognuno di noi, io su questo è un aspetto di cui sono convinto, la vanità fa parte della persona, ma anche la comodità in vacanza, e è un aspetto dell'esposizione a Pisa, la comodità in vacanza è indubbiamente una delle protagoniste, e finalmente possiamo vestire, beh, il mio famoso costume rosso che uso ormai da non so quante stagioni, chiaramente lo lavo, ovviamente. A pantaloncino è diventato ormai proverbiale, ecco, però quello che può essere scambiato per una comodità non deve essere poi assolutamente confuso con qualcuno che si lascia andare o che non ha affatto cura, diciamo, non è interessato ad avere costantemente il motivo di novità in spiaggia o nei luoghi di villeggiatura. Perché dico tutto ciò? Perché nell'articolo della Domenica del Sole 24 Ore invece portava l'attenzione in passato a quello che era l'abbigliamento in vacanza, che aveva un suo look, un suo stile, un suo fashion anche per le vacanze. Non era motivo, ok, mi sento più comodo e quindi ricordo le vacanze negli anni 70 in famiglia, quelle poche che ho vissuto, c'era un'attenzione nel vestirsi anche per andare a pranzo a Milano Marittima nella pensione a gestione familiare Arlecchino di Viale Filzi. Bisognava, non si andava certamente col costume e le ciabatte da spiaggia, no, assolutamente, il momento del pranzo e della cena era da condividere vestiti in un certo modo. E su questo, appunto, tra i cambiamenti, tra tutto ciò che è diventato motivo di tempo libero, tra moda, sport e quello che è oltre che il tempo libero, la vacanza, quando in vacanza ci si vestiva eleganti, calzoni corti, magliette improbabili e orribili marsupi. Oggi la comodità e il consumismo hanno prevalso sullo stile e il gusto nel vestire. Una mostra rimanda e riannoda con fili lontani un'evitabile concessione alla nostalgia. Sì, è un articolo leggero, però ha dato motivo, insomma, di lasciare anche qualche ricordo alle vacanze appena trascorse, alle nostre modalità di viverle, che è sempre qualcosa che ci resta, sempre e comunque. Stacco musicale, come vi ho detto, la attinenza tra lo sport nel nostro Last Minute, seppur con contenuti decisamente più incisivi, è questo che ha aperto i nostri magazine di oggi 11 settembre 2023. Lo stacco musicale che vi mando in battucada brasiliana da Brazilian Beats e poi si rientra. Ah, ricordo, 333-180-9494. Non è un libro di ricette, no, assolutamente, non è un libro di cucina, non è un libro di tradizione alimentare, ma è un libro anche con una storicità e un saggio con appunti di cuochi di grandi dittatori. Yeah. Allora, come ben sapete, i nostri magazine sono sempre molto ricchi e variegati, e per la Keller, casa editrice di Trento, mi pare, trentina, ecco, una casa editrice con uno sguardo e un'attenzione verso l'est Europa, l'autore è Witold Zabolski, quindi immagino sia polacco, per quanto riguarda l'autore di Come sfamare un dittatore. Mi sono buttato nella lettura perché è un saggio che rimanda, per così dire, non una narrazione di continuità, ma appunto con tanti capitoli dedicati, non so, a, ne cito alcuni, Saddam Hussein, Enver Hoxha dall'Albania, insomma negli occhi dei loro cuochi che hanno in questo caso non la ricetta preferita qui dagli elencati capi di Stato, ma semplicemente un'emozione che veniva trasmessa una volta preparato il loro piatto preferito. Ad esempio, a proposito di grandissimi, Fidel Castro, che noi ce lo immaginiamo così, lui non resisteva. La sua debolezza di Fidel Castro davanti a questa, veramente è il caso di dire, si scioglieva, è il gelato. Non resisteva davanti al gelato. Lo capisco, capisco benissimo. È un libro di grande originalità, è un saggio, sapete, spesso la saggistica è protagonista nel magazine, il format del lunedì, e quindi è una meditazione, se vogliamo, anche profonda sul rapporto tra cibo e potere, esattamente, e lo metto a vostra disposizione. È stato la settimana scorsa, per quello che l'ho portato quest'oggi, per quanto riguarda un'ulteriore collaborazione con Libreria Ubic di Via Ernerio 27, ribadisco, potrete ritirarlo in Libreria Ubic in Via Ernerio 27. Prima però vi do un altro filo conduttore rispetto al Last Minute di cui vi ho parlato in precedenza, che si parlava di sport, l'aspetto inclusivo, lo sport nella declinazione femminile. Allora, a pagina 7, restiamo sulla Domenica del Sole 24 ore, ho letto l'annuncio, vado nello spazio, è un astronauta che diventa a sua volta, nella accezione di astronaute, con Umberto Cavallaro, che ricostruisce le storie sorprendenti delle donne che sono riuscite nell'impresa, dalla discriminazione oggi, quando sono incoraggiate, anche se la parità purtroppo è lontana. L'articolo è di Patrizia Caraveo, lo troviamo sul forbito e preparato inserto del Sole 24 ore la domenica. È un importante cambiamento di atteggiamento che certifica una storia spesso tormentata. Sì, ma da ambole parti, adesso ho citato astronaute ma anche cosmonaute, sapete questa differenza, per differenziare nella lotta, nel confronto per dominare gli spazi e la guerra fredda, negli Stati Uniti la NASA astronauti e astronaute, in questo caso per l'Unione Sovietica cosmonauti e cosmonaute, e l'Unione Sovietica al primato. Io non sapevo che la prima cosmonauta, la prima donna nello spazio è stata, adesso faccio fatica a leggere il cognome, ma è Valentina Tereslovka, in quanto è stata lei ad avere il ruolo da protagonista per una missione affidata a una donna nello spazio. Purtroppo fu una missione molto sofferente, lei è stata tenuta, non poteva dirlo neanche alla madre, per dire, non poteva riferire neanche alla madre, sai, sto partecipando finalmente a uno dei miei sogni, andare nello spazio, no, era una cosa segretissima, e nello stesso tempo l'Unione Sovietica ci teneva tantissimo, appunto per far valere, con i nostri studi stiamo allargando le possibilità, come giusto giusto che sia a uomini e donne. Beh, il viaggio è andato, sì, è andato bene, ma le testimonianze poi in seguito della protagonista, un'esperienza traumatizzante, 64 giorni veramente pesanti, è tornata estremamente provata da tutto ciò. Ma anche, pensate, la prima donna giapponese invece è stata una dottoressa, sì, una chirurga, adesso che vanno queste definizioni, è stata, ma anche dagli Stati Uniti d'America allo stesso modo, e l'esito più o meno fu abbastanza difficoltoso, seppur positivo, It means I'm going for whale. Now I'ma stay focused and I won't fail. Like when Lancelot got the Holy Grail. I don't crave static if I'm cooling back. But some brothers, they be bugging out the way to act. I and I bless my selfish, remain intact. I don't strain my brain, but retain my knack. Now I'm feeling so lucky, so I knock on wood. Cause I know that I can, don't you wish you could? Now them suckers stand silent, they know they should. If they peep the creep flow, Joe half as good as the Buckhead vibe. Ride your musical feeling. Maintain my integrity and sex appealing. Sustain my fun hunt to keep free. Ed è ora, now is the time. 333-180-9494. Il reportage, il saggio su questa versione di Chameleon degli Urbanator. Whittle Zabowski, come sfamare un dittatore. Qui c'è la lista da Enver Hoxha, da Saddam Hussein e tanti altri, gli occhi dei loro cuochi. Ribadisco, è una lettura quanto mai originale e curiosa, e non immaginate una lista di ricette, no, se no non l'avrei neanche proposta. Anzi, sono originali testimonianze e reazioni emotive davanti al piatto preferito da parte di grandi capi di Stato. Poi la Keller è una sicurezza, secondo me, per quanto riguarda l'originalità. Allora, abbiamo parlato di Fidel Castro. Vorrei sapere da voi un po' di musica, poi andiamo in pubblicità. Magari durante gli spot potete scrivere al 333-180-9494. Chi ha deposto Fidel Castro? Come si chiamava chi comandava a Cuba prima di lui? Se mi date questa risposta, per voi come sfamare un dittatore, lavoro della Keller Editore. Chi prima di Fidel Castro aveva il potere a Cuba? Se mi dite appunto questo nome, è per voi il lavoro che ho appena presentato alla libreria Ubi. You tried to get over with the fusion friction. I'm not an English major, but check your diction. Rudolph, Cupid, Donna Blitzen. Find the mission, fraction friction. With my tongue, I kicks the reeling. You're a rover, overkilling. Wrecks the decks, effects I'm dealing. What's the title? Idol, recital from Chameleon. We'll be right back. Ultimamente in diretta vi ho parlato di un saggio della Keller, Come sfamare un dittatore, di Witold Zabalowski. E il quiz, appunto, che vede chi ha avuto una debolezza per una, non dico pietanza, ma per un dessert prelibato, e capisco in questo caso una debolezza quanto mai giustificata, Fidel Castro, completamente addicted dal gelato. Allora al quiz parliamo invece di forza in questo caso. Chi è stato deposto dalla rivoluzione socialista di Fidel Castro a Cuba? Come si chiamava il fantoccio dagli Stati Uniti d'America che deteneva il potere nell'isola di Cuba, poi deposto dalla rivoluzione socialista di Fidel Castro? Mi dite questo nome e per voi il saggio che ho appena presentato. Ribadisco, 333-180-9494. Non è un libro di ricette, non è un libro appunto che è unicamente dedicato a questa specificità, assolutamente, sono testimonianze, emozioni dei grandi uomini e grandi poteri davanti al loro piatto preferito. Posizione Lino, grande Lino, domani ti aspetto perché c'è un altro saggio dedicato ai grandi playground. Non hai portato a casa questo, ma domani hai la possibilità di avere, e avremo i protagonisti in studio del lavoro Chi segna regna, dedicate a immagini tra i più grandi playground nel mondo. Per quest'oggi medaglia di bronzo. Medaglia d'argento a Dino della Bolognina, perfetto, è stato Fulgenzio Battista la risposta esatta, ma sei arrivato secondo, perché il premio medaglia d'oro va a Luigi, esatto, Fulgenzio Battista, bravo Luigi, alla UBIC, Come sfamare un dittatore, Witold Zablowski, le edizioni Keller, saggio di oggi. Anche, ma merita la citazione in quanto la risposta è esatta, un arrivo via SMS, però senza nome, quindi grazie per aver giocato col Breakfast Club, risposta esatta, ma non posso, cioè posso mandarti i saluti così, in forma anonima. Buona pace per quanto riguarda due grandissimi, cito i primi, ma non erano soli, Aristotele e anche Rousseau, obbedire al maschio, essere mogli docili e fedeli, addirittura dicevano, pensa a te, secondo natura, era quel che diceva Aristotele sulle donne, si ritrova quasi immutato in Rousseau. È un altro saggio molto intenso di Giulia Sissa, tradotto da Carrocci Editore, l'errore, io aggiungerei cambio una vocale, compro una vocale, metto l'orrore, scusate le troppe R, è il mio difetto di pronuncia, però in questo caso queste affermazioni non sono solo errori, sono orrori. Ho detto con buona pace proprio perché ho portato in precedenza, oltre che lo sport, anche per quanto riguarda la scienza, la ricerca, il coraggio. Ho letto l'annuncio e vado nello spazio tra scienza e filosofia, dedicato alle prime cosmonaute e astronaute della storia. E poi ne abbiamo un esempio anche qua in Italia, no? Alias invece, l'edizione del sabato, molto bella, eh? È un'edizione completamente dedicata al Cile, come l'apertura del GR di Radio Popolare, e quella voglia di destra, una denuncia contro ogni forma di revisionismo. Un paese sempre più diviso sulla rilettura del passato da quando Boric è al governo. È un cammino accidentato quello della democrazia. Poi, per quanto riguarda l'approccio con media e con la digitalizzazione, chi ha risposto ai Chicago Boys con la genesi del neoliberismo, cioè i Santiago Boys, che avevano quest'idea di mettere a disposizione un sistema informatico e digitale, tutto questo alla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, con gli albori della famosa internet, fino ad arrivare poi, come si conferma negli anni 70, una messa in attuazione per quello che è il lavoro di tecnici, filosofi anche, e soprattutto, già la parola magari non andava, però informatici, che avrebbero messo la digitalizzazione completamente in maniera socialista e statale, non unicamente per quello che è un accumulare ricchezza al privato, ma per metterla a disposizione e facilitare il lavoro alle imprese in Cile, appunto a organizzazione statale. Gli approfondimenti su Speciale Cile, 11 settembre, tra l'altro, è la data del colpo violento di Stato che conosciamo bene. Già in GR di Radio Popolare abbiamo avuto l'apertura su tutto ciò. Il presidente non si arrende, la morte di Allende, la versione ufficiale e le nuove testimonianze e perizie contro il suicidio. L'intervista di Rossana Rossanda, intervista Allende ai primi di ottobre del 1971, un anno dopo la vittoria di Unidad Popular. Vi è anche quello che abbiamo già anticipato, con un protagonista per la poesia e la musica, che sarà al Circolo della Pace del Pratello questo sabato, mi pare, sì, sabato, per il lavoro di Alessio Di Modica dedicato a Victor Jara. Ricordi, 50 anni fa gli aguzzini fascisti di Pinochet torturavano e uccidevano il grande artista cileno. Sì, approfondimenti veramente molto ben fatti e completi sull'edizione del sabato dedicata al Cile. We'll be right back. direbbe diamo spazio un attimino, ma magari li riprendiamo la prossima puntata, perché è un articolo che merita, sulla domenica. È un articolo dedicato al formica leone. Magari potrebbe anche essere oggetto di quiz. E non si finisce mai di imparare, più si invecchia meno si sa. E quindi il formica leone, per me ad esempio, io chiamavo formica leone quelle formichine con le ali, di questo è un formica leone. No, è tutta un'altra cosa, quelle sono formichine alate. Formica leone ha dei metodi di caccia sin da stato di larva veramente molto molto strategici, crea dei piccoli vortici nella sabbia e la piccola vittima resta così incagliata in tutto ciò e poi viene colpita da granelli di sabbia fino allo stordimento, dopodiché viene assorbita e tritata da queste mandibole potentissime. Da lì appunto il formica leone. E magari sulle formichine alate facciamo un approfondimento e anche un quiz la prossima settimana, perché con la nostra città hanno un'attinenza, sapete, per me l'avete già intuita. Magari con questa anticipazione vi do l'invito per la prossima puntata dei Magazine, che sarà lunedì prossimo. A breve, Lady Peo Enciclopedico, ritornano Roberto Raspadori e Piero Di Domenico. Domani, vi ho già detto, del Moved Group con Chi segna regna, un altro saggio in premio per voi e l'augurio di una buonissima giornata e appuntamento a colazione alle ore 7 per l'imprevedibile martedì, inizio settimana con Radio Città Fujiko e il Breakfast Club. Per oggi è veramente tutto, manca e ve lo do immediatamente un caloroso abbraccio e grazie per l'attenzione dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.